Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e oggi non troviamo il presidente Carlo Garofolini ma un rappresentante attivo dell'Adico che è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco. Ecco, con te parliamo di mercato immobiliare. Proprio l'altro giorno mi è capitato di vedere un articolo che parlava del fatto che sono sempre di più le persone che vendono la da proprietà perché magari non hanno i soldi per tirare avanti la carretta, no? E allora cedono l'unica cosa che hanno, il bene che hanno, che è quello della casa. Voi invece avete fatto un'indagine diversa, l'avete fatta nel territorio padovano, ma è rappresentativa anche per il Veneto. Sì, direi che assolutamente rappresenta il Veneto, probabilmente anche comunque il trend nazionale, che è un trend che abbiamo rilevato comunque anche nel 2014. Ecco, diciamo allora che è ripreso il mercato immobiliare, questo è sicuramente un buon segnale. Sono riprese le compravendite, l'abbiamo registrato sia nel 2014, ma lo registriamo ancor più, diciamo, nel primo semestre del 2015. Insomma, diciamo, qualcosa si muove nel mercato immobiliare. C'è da dire però, Francesco, che effettivamente dal 2008 in poi comunque abbiamo dimezzato le vendite, quindi c'è una ripresa, però prima di tornare ai livelli pre-crisi, insomma, anzi probabilmente non ci arriveremo neanche mai. Però insomma, diciamo, qualche segnale positivo lo stiamo assolutamente rilevando da questo punto di vista. Ecco, vuoi dare qualche numero? Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo registrato un aumento delle vendite di case in tutta la provincia, per quanto riguarda Padova, che si attesta oltre il 10%. Abbiamo anche rilevato che proprio nello stesso capoluogo padovano, dove lo scorso anno si era registrata in realtà una diminuzione delle vendite in confronto alla provincia, dove invece erano aumentate, registriamo invece un ritorno, diciamo, all'acquisto in città, cosa che invece non ci risultava nel 2014. In generale, comunque, nell'ultimo anno e mezzo le compravendite, come rileva lo stesso osservatore del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, insomma, sono in crescita. Ci sono buoni segnali, ecco, sotto questo punto di vista. Beh, diciamo, anche perché ricordiamo che se c'è la compravendita di case, poi automaticamente magari c'è da riordinare qualcosa, da fare qualche lavoro di manutenzione, si vendono i mobili, c'è tutto un mercato che poi gira attorno alla casa, che magari in qualche modo trova anche un po' di respiro. Sì, Francesco, tra l'altro ricordiamo che il mercato immobiliare è probabilmente uno dei termometri più importanti per capire come sta andando l'economia di un territorio. Certo. Quindi, ecco, diciamo, quella ripresa di cui un po' si sta parlando, insomma, sicuramente da questo dato emerge, chiaramente, insomma, e non cantiamo vittoria, però insomma qualche indicazione positiva l'abbiamo. Ecco, l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, segue nel caso qualcuno ne avesse bisogno, insomma, anche queste cose particolari. Quando c'è una compravendita di una casa, se qualcuno ha bisogno può chiedervi un aiuto, ma c'è lo sportello Sfratti e Condominio, che in questo periodo ha registrato come un aumento delle controversie nei condomini, quindi tra vicini di casa si tira fuori il coltello. Sì, allora non so se questo poi possa essere legato al fatto che si vendono più case, quindi aumentano proporzionalmente le liti, magari non c'è un rapporto così diretto. Noi come Adico, tramite il nostro sportello, seguiamo però parecchie problematiche legate alle liti condominiali. Ma a Padova abbiamo registrato un aumento del 16%, ma credo che potremmo trovare degli aumenti in tutte le province, almeno del Veneto, tra quelle che noi monitoriamo più spesso. Le liti riguardano, possono essere tra l'inquilino e il proprietario dell'appartamento, diciamo, sì. In questo caso soprattutto legato magari a morosità, che comunque quelle sono sempre in aumento, purtroppo. Morosità sia per quanto riguarda il pagamento dell'affitto, sia per quanto riguarda le spese condominiali. Poi le liti, quelle tra condomini, insomma, esistono da sempre, diciamo che vanno dalle problematiche legate ai rumori molesti, all'utilizzo degli spazi comuni, anche le stesse spese condominiali, insomma, però si sa che tra vicini molto spesso, insomma, non corre buon sangue, come dicevi tu. Ecco, mi viene in mente, forse è una domanda sciocca, ma ci sono gli amministratori di condominio per i condomini. Evidentemente magari si rivolgono a voi quelli che hanno case con 3 o 4 appartamenti, quindi non è necessario per legge che ci sia un amministratore. Ma allora, ti dico la più sincera verità, da noi si rivolgono sia persone che hanno a che fare con un amministratore, sia persone che in realtà vivono in condomini, ma sia addirittura anche amministratori stessi. E quindi, insomma, abbiamo un po' tutte le categorie, ecco. Ripeto, quella degli amministratori assolutamente è un iscritto che sta aumentando all'interno dell'Adico, perché effettivamente diventa anche un mestiere molto spesso molto difficoltoso. Allora, non è facile relazionarsi con molti condomini. Registriamo purtroppo anche un aumento delle problematiche legate agli inquilini stranieri, questo che sono magari in parte quelli più in difficoltà a livello economico, e quindi, insomma, diciamo, comunque l'amministratore del condominio ha il suo bel da fare, ecco, e quindi si rivolge anche lui a noi. Ho capito, vabbè, quindi avete qualche problema, una telefonata magari vi può aiutare direttamente all'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it. Speriamo che il trend di vendita delle case continui a essere positivo, perché questo, insomma, come dicevamo, darà una boccata di respiro all'economia del nostro paese, quindi anche a far rigirare un po' il denaro nelle tasche di tutti quanti. Grazie quindi a Gianluca Codognato dell'Adico. Grazie a te, Francesco. Ci risentiamo tra un paio di giorni. Grazie, grazie mille. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.